l'Italia sarà pronta. Ma personalmente Totti sì o Totti no? So che è una domanda banale, quasi retorica. Ho appena letto una dichiarazione di Ancelotti che dice di avere rimpianto, sì, di non aver allenato Totti. Totti è un campione, è un fenomeno. Adesso aveva cominciato la stagione benissimo, adesso ha avuto questo infortunio, dipenderà da tante cose. Poi io sinceramente ho altro cui pensare. Sono contentissimo di aver Diamanti, ma non sono il CT e Prandelli saprà, credo, sei sicuramente il giocatore migliore. L'ha detto ieri sera Tiki-Taka. Ho una curiosità finale su Moscardelli, che come lei saprà è diventato una... Il bomber. È diventato il bomber, no? Chiamarsi bomber, un guru per alcuni video e per un approccio, diciamo così, da persona comune verso il lavoro di calciatore. Com'è nello spogliatoio tutti i giorni? Un trascinatore, un leader, un taciturno? Perché insomma Moscardelli ormai è un personaggio, ce lo faccia conoscere un po'. Ma è così come lo vedete, cioè, nel senso, è un ragazzo molto semplice, molto spontaneo, un ragazzo ma neanche tanto estroso, nel senso, non è di quelli che poi fa così tanto confusione nello spogliatoio. Però un ragazzo che ha la battuta pronta, un ragazzo sempre disponibile, un ragazzo che affronta la sua professione con grande serenità, con grande felicità, come credo che sia giusto fare per gente che ha dei meriti, ma che ha anche la fortuna di svolgere una professione tra le più belle al mondo. Sveglio con giudizio. Grazie a Stefano Pioli. Ricordiamo che oggi, grazie, scrive Danilo, a Bologna inizia il 56esimo Zecchino d'Oro. Non so se sia vero, ma se è vero lo guardiamo. Grazie a voi, buona giornata. Ciao mister, ciao, buon lavoro. Tu lo guardi lo Zecchino d'Oro, Pardo? Sei... Guarda, io avevo completamente rimosso la presenza dello Zecchino d'Oro, però, male, molto, però molto, appena molto hai pronunciato male la parola Zecchino, ci ho avuto quell'attimo di memoria involontaria, alla Proust, no? E mi sono tornato bambino sul vecchio salotto di casa dei miei, su quel, sì, divano marrone, a guardare lì che c'era Mago Zurlì. Mago Zurlì, ma certo. Sì. Poi mi ricordo le cose quando c'erano quelle gare di sci... Magari ti capitava, sì, di star male, no? Con la febbre, era una cosa meravigliosa. Cioè, la febbre per un bambino che va a scuola è una delle cose più belle, ti posso capitare, non vai a scuola e stai lì e ti guardi le gare di sci e poi il pomeriggio. Bravo, la seconda mancia Schladming e poi i tortellini in brodo, vedi, tutto torna. Bene. Tutto torna, caro Piero. 800 24 00 24, tornano anche i nostri ascoltatori, magari vogliono parlare di Italia-Nigeria di ieri sera. Io continuo a pensare, okay, che queste amichevoli non servono veramente a un, no, tubo. Sarebbe meglio mandare i giocatori. Puoi fare quello che vuoi, ma sarebbe meglio mandare i giocatori o ad allenarsi o anche in vacanza in periodi come questo. Guarda, io ho il tema che secondo me fa scatenare i nostri ascoltatori. Non so se Piantanita ha preparato un contributo, probabilmente sì. Sì. A parte che mi hai fatto già sognare con quella dichiarazione che diceva Pioli su Ancelotti, che ieri sera a Tiki-Taka ha dichiarato, fra le altre cose, quel discorso su Totti, eccetera. Sì. Ma non so se abbiamo quel Toir. Toir chiude Calciopoli. Abbiamo Toir che chiude Calciopoli? Certo che ce l'abbiamo. Ma senti, ma aspetta un attimo, su Ancelotti, andiamo o no? Aspetta con Toir. Andiamo o no a fare sto sit-in per Cristiano Ronaldo a Reggiolo? Ma ieri ha detto che lui il sit-in non lo fa, però che, insomma, ha ribadito il concetto. Ha cambiato la forma, ha cambiato i metodi di lotta, no? Fa approvvigionamento a noi che ci andiamo, invece. Che poi noi con grande buon gusto non gli abbiamo chiesto lo sciopero della fame. Perché, insomma, chiedere a Carlo lo sciopero della fame sarebbe stato veramente... Già lo sciopero del Camon o del Culapello sarebbe... Di una crudeltà mai vista. Allora, però Toir... Ieri ha detto delle cose su Cristiano Ronaldo pazzesche, poi magari ne parliamo. Certo. Toir. Well... What is past is past. Il passato è il passato. La cosa più importante per me, come fan della Serie A. Ora, la Serie A era molto forte in Asia negli anni Ottanta. Tutte le leghe più importanti del mondo. Ci sono più di 2 miliardi e mezzo di persone in Asia, 250 milioni negli Stati Uniti. Questi sono grossi mercati. Per questo io ho detto alla riunione di oggi, dobbiamo cercare di lavorare insieme agli altri proprietari della Serie A. Dobbiamo fare qualcosa perché rappresenta questo un potenziale enorme per tutti i club della Serie A, per creare mercati fuori dall'Europa. Il passato è passato, la cosa più importante è come possiamo sfidare la Serie A a diventare una delle leghe più importanti al mondo. Queste le parole di Toir che chiude Calciopoli, ma d'altra parte secondo me non ha ancora capito dove tira il vento Toir, non, no, ha ancora capito dove è capitato. Questa cosa qui secondo me è epocale, è epocale, perché comunque sia è vero che Toir non ha vissuto l'epoca di Calciopoli come è successo direttamente a Moratti, però Toir ha già vissuto una battuta, quella del famoso Giacartone, sì, che insomma in qualche modo poteva, no, avergli rovinato l'umore, o comunque insomma poteva già aver creato un po' di elettricità fra Inter e Juve. Mm. Il fatto che lui, a precisa domanda tra l'altro di Tommaso Abbate, che era ospite ieri sera in studio, cioè il Corriere della Sera, abbia risposto in questo modo, secondo me, secondo me è una notizia questa. Sì, una notizia, ma... e lascia immaginare, magari poi non succederà così, che dal punto di vista dei rapporti societari, insomma, l'ostilità o comunque l'elettricità che c'è stata in questi anni tra Inter e Juve su quella vicenda possa essere venuta meno. Sì, ma lui lo dice da uno che è appena arrivato e che non è ancora o non sarà mai forse emotivamente coinvolto a quei livelli. È la battuta di un ET, di un marziano che arriva in questo strano paese, in questo strano luogo. Un figlio juventino, abbiamo scoperto ieri, sì, sera che gli ha comprato. Però diventerà interista, un figlio juventino, sì. Però ha detto lui presto diventerà interista. E per insomma, per dimostrare che Toir non ha ancora capito come fischia il vento da queste parti, poi vi faccio sentire anche un divertente estratto, un divertente file audio che poi vi spiego su Twitter, che va a fare acquisti. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, posso chiederti di essere sincero e spietato con me? Certo. Ma secondo te io sto prendendo in giro Twitter oppure buttando fango sul presidente dell'Inter? No, perché se l'ho fatto non me ne accorgo. Sembra proprio di no, tra l'altro no perché così mi scrivono, ma vabbè, ognuno capisce quello che intende. Non è mia intenzione, non ne ho motivo e non ne ho neanche voglia, sinceramente, però no, anzi posso dire una cosa, penso che tu la condivida e posso anche far svelare un retroscena, tanto insomma, credo, sì, che Carlo si offenderà, che poi ieri sera quando ci siamo sentiti dopo la trasmissione con Ancelotti, che comunque nei primi 20 minuti, mezz'ora, per motivi logistici aveva fatto un po' di anticamera, un po' di tappezzeria, sì, perché avevamo dedicato la prima parte a Toir che doveva andare, e quindi poi alla fine quando ci siamo sentiti così per ringraziarlo, gli ho chiesto in qualche modo anche scusa di questi 20 minuti, e lui mi ha detto che anzi si era molto divertito e gli è sembrato, e io condivido pienamente, da quello che si può capire ovviamente da un'intervista televisiva, da questi primi giorni milanesi, un bel personaggio, sì, la sensazione di un uomo con le idee chiare, che parla poco, anche se sicuramente la battuta di Messi ha fatto il giro del mondo, certo, però è un personaggio secondo me che parla poco e che parla soprattutto di cose di cui sa, quindi sì, di cose legate alla struttura della squadra, al merchandising, al marketing. Diciamo che è uno che sta studiando, certamente non è uno sprovveduto, sempre per parafrasare Mourinho, ma c'è una cosa che prima dicevo, ma anche questo è uno scherzo, non ha ancora capito bene dove si trova. Allora la scena è questa: Toir entra in una barzelletta, una scena che si è verificata e è stata ripresa dalle TV, no, Pier? Entra in un internet point perché vuole comprare dei gadget per il figlio juventino, per farlo poi diventare interista, e vuole pagare. Che succede? It's business? No, it's business! No, you have to pay. No, I have to pay. No, yes. Next. Another time. Next. Okay, next time. How much? Under 28. Cioè entra all'Inter Point, vuole pagare. Non abbiamo capito Carlo di quanto fosse la mancia, no. Certamente però abbiamo capito che dietro a questo gesto, sicuramente istintivo, insomma, sì, non è che Toir sicuramente proverà l'ebbrezza di un rosso in banca per questo per questo tipo di mancia che ha dato, però si nasconde un atto intelligente. Certo. Perché da un lato lui l'ha motivato come chiaramente un ulteriore essere testimonial del merchandising, che sappiamo quanto sia importante per la società. Dall'altra, questo non l'ho detto, ma ci può stare, dopo quella mancia, insomma, non si è speculato, no, sulla forza economica di quest'uomo. No, ma chiaro, e quindi secondo si me parietto, si è creato anche un effetto, no? Ma si parete molto simpatico, cioè ma diceva no, ma lei presidente, ma che cosa vuole pagare? No, io voglio pagare, ma guardi, la carta di credito non funziona, allora lui caccia 200 e dice no, io voglio pagare, perché è così che funziona. Francesco Milano, buongiorno. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Io volevo fare una domanda a Pioli su due mie curiosità della Juve dell'anno 80, però in tempo reale ho trovato altre due domande, se mi è possibile. Sì, Pioli è andato a fare allenamento. No, lo so, lo immaginavo. Allora, era una su Toir, il prodotto calcio italiano, e una sul ciclismo, se mi consentite. Sì, certo. Allora, per quanto riguarda Toir, è vero che lui dice del prodotto calcio c'è un mercato in espansione nel Far East e quant'altro, però finché la Lega è in mano a Galliani, Pulvirenti e Lotito e a un presidente stipendiato da loro, io dubito che il prodotto calcio possa migliorare. Questa è la mia personale opinione. Seconda cosa, capisco anche quello che lui dice, che le squadre e i club si possono espandere in questi paesi, ma l'espansione si fa solo con le vittorie, cioè Manchester United, Barcellona, Real, ai tempi la Juventus prima di Calciopoli, lo stesso Milan avevano un fatturato e una penetrazione in quei paesi. Non lo so, Francesco, però con le vittorie e con la PIL, per fortuna l'Inter, la Juventus e Milan a PIL ne hanno ancora, anche se non possono mettere sul piatto le vittorie di qui sopra, e da questo punto di vista ha ragione. Però ripeto, per me il problema grosso è quello della Lega, cioè finché il prodotto calcio in Italia non è in mano a dei professionisti seri, e so che settimana prossima le trattative si presenterà Lotito a trattare il prodotto calcio, capite? Dove siamo messi? Con un presidente di Lega che sta zitto. Lotito nelle trattative è bravo, adesso questo. Sì, no, vabbè, ok, va bene. L'ultimo sul ciclismo, veloce. Sì. Adesso sta parlando Armstrong e il discorso del luce tutto. Sì. Per me c'è tanta ipocrisia. Finché non si ha il coraggio di dire che un essere umano non può fare 230 km al giorno in una gara a tappe, ad una media di 45 orari con meno 10 gradi o più 30 gradi, e poi avere il tempo a 45 km di media, finché non si fanno dei parametri dove si dice io sopra questa soglia controllo tutti oppure non accetto il risultato, perché un essere umano non lo può fare, continuerà questa ipocrisia per cui noi ci stupiamo. Ma no, però Francesco, allora, l'ipocrisia da che parte sta? Cioè, Armstrong è un dopato dichiarato, adesso Armstrong dice però mi coprivano, Verbrugge, ex presidente dell'UCI, copriva la mia positività, copriva le mie malefatte, perché questo faceva comodo a tutti. Ovviamente se l'altra parte si è offesa, io personalmente sono portato a credere a Lance Armstrong, però sarò malizioso io sono portato a ritenere che una volta tanto Armstrong stia dicendo la verità. Però sai, quando poi tu confessi un peccato così grave è anche difficile che tu possa avere la credibilità che avevi prima. No, io credo che quello che ha detto l'ascoltatore, è soprattutto sulla parte del ciclismo e del doping, è assolutamente un tema quasi filosofico. Cioè lo sport che supera il confine umano dell'individuo, che attraverso tutta una serie di doping naturali, cioè l'allenamento, l'alimentazione, il miglioramento delle tecnologie, riesce a crescere, poi si arriva a un punto al quale, certo, oltre i limiti dell'umana fisiologia, stesso, cioè che l'antidoping è sempre comunque un passo dietro, un metro dietro al doping, cioè è un classico meccanismo di causa e effetto, come guardie e ladri. Se io trovo un sistema per smascherare un certo tipo di doping, c'è già qualcuno che ha partorito un sistema diverso che mi consente di imbrogliare senza essere beccato. Però questo è un altro discorso ancora, che è quello, se vogliamo, politico. E allora in questo momento Armstrong dice io ho fatto quelle cose, però venivo coperto dal padrone del vapore, cui faceva estremamente comodo avere Lance Armstrong, che diventava il marziano e vinceva 7 tour e vendeva il Tour de France in ogni angolo del mondo facendo soldi. È un ragionamento che secondo me andrà approfondito e andrebbe approfondito. Marco da Pisa, ciao. Niente, volevo parlare del Livorno. Parliamo del Livorno, il confronto che ha fatto con Pepito Rossi, Maggio Zola, e lei ha detto Rossi. Niente, io vedo proprio Rossi, non ce lo vedo, perché Rossi era, io ero un grande amante di Rossi, ma era tutto un altro scelto avanti, praticamente più di Rapina, più, cioè lei non ho capito bene, non è d'accordo sul parallelo Paolo Rossi Pepito Rossi forzato da me ieri, o non le piace Pepito Rossi in nazionale, non ho sentito bene. Io sono tifoso della Fiorentina, pensa. Per me Rossi è un grandissimo, però io lo paragono a Romario come tipo di gioco, classe, e riesce a saltare all'uomo. Rossi era grandissimo, ci ha fatto vincere il mondiale, però le caratteristiche più tipo Inzaghi, altri Sì, sono, ma è chiaro, ma è semplicemente un gioco, anche perché i paragoni epocali sono sempre un giochino da bar e un giochino che ha risultati fasulli, no? Che è deformante. Secondo te Pardo a chi assomiglia del passato, Pepito? Guarda, secondo me Pepito è un grandissimo, è proprio sì? Un grandissimo, cioè tecnicamente è un giocatore eccezionale. Adesso Romario, un paragone interessante, stimolante, che può sembrare anche eccessivo, però per me Pepito Rossi ha dei mezzi tecnici enormi. Montella recentemente ha fatto capire che è ancora più forte di lui, e certamente Montella era un attaccante tecnico, non era un attaccante di puro opportunismo. Il paragone così su Pepito non è facilissimo. Però insomma, secondo me siamo nella categoria dei grandissimi, e tra l'altro noi dobbiamo ricordarci che la carriera, l'impatto fin qui relativo nella storia del calcio di Pepito Rossi è dovuto al fatto che ha cambiato tante squadre, sì. Alcune tra l'altro non di primissima fascia, perché con tutto rispetto per il Villarreal e per il Parma è stato decisivo per una salvezza mostruosa, ha iniziato la carriera al Manchester United ma soltanto iniziata, insomma è un giocatore che e poi soprattutto ha avuto questo calvario fisico che certo. Ci ha tolto un anno e mezzo, quindi certo. Veramente quello che abbiamo visto al netto di tutti questi infortuni e di qualche momento, diciamo così, un po' di bassa visibilità mediatica è abbagliante. No, poi è un giocatore che dà la sensazione di una determinazione feroce. Cioè lui non lo muovi nelle sue convinzioni. Da questo punto di vista è quasi l'opposto rispetto a Balotelli. Mi sembra uno caratterialmente davvero molto forte. Tra l'altro è un predestinato, è uno che fa l'esordio con Manchester United e segna dopo 5 minuti, è uno che trascina il Parma alla salvezza, è uno che fa Villarreal, era evidentemente mezza squadra. Io, veramente solo cose che a dire su Pepito Rossi, perché veramente rappresenta veramente una cosa che piace a tutti. Io credo che fra gli impianti di Ferguson ci sia sicuramente, sì. Oltre a Pogba, ci sia anche lui, ci sia anche questo giocatore del quale comunque Ferguson aveva intuito le potenzialità. Quindi copia promossa quella di ieri sera, per chiudere, Pierre. Sì, sì, assolutamente. Andiamo avanti così. Guarda, l'incognita è sempre la stessa. Non so se puoi dire il 45. No, se Balotelli ci regala un mese senza rotture di scatole, con un controllo dei nervi totale, allenato bene, senza grilli per la testa, possiamo, per me Balotelli Rossi è una coppia d'accordissimo. Attesca. Io ripeto, mi porterei dopo aver fatto un bel discorsetto al diretto interessato, che può essere Totti, che può essere Cassano, che può essere Di Natale, mi porterei un giocatore di talento che possa stare, come spesso è successo nella nostra storia, il classico stellone italico. Certo, no? Certo. Il giocatore di grande talento tattico che entra e con la magia riesce a risolvere situazioni incasinate. Sono d'accordo con te, Pier. Grazie, ci sentiamo domani. Vabbè, ciao. Ciao. Traffico, poi 800240024, tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire. Contento certo del gol, contento anche della prestazione della squadra che secondo me ha fatto una grande partita. Peccato per quei due gol, era nel momento migliore nostro. E poi abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato benissimo e possiamo andare contenti a casa con questa prestazione. Convocati. Siamo alla Fiera della Banalità, una delle mie rubriche preferite. C'è materiale per oggi, ce lo regala il ministro dell'Interno, Alfano. Modernamento degli stadi, costruzione di nuovi stadi che sul modello di Brighton possano rappresentare dei luoghi accoglienti per i bambini, per le famiglie, rendendo anche più moderne e più belle architettonicamente tante zone delle nostre città. Così a memoria, quante volte le avete sentite dichiarazioni come questa? Poi entra in campo anche la task force, l'ennesima task force per rendere più sicuri gli stadi, per permettere... Faccio un respirone ai bambini e alle famiglie di tornare finalmente allo stadio. Paolo da Milano, tutti allo stadio con Alfano e con i bambini. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a te. Dimmi. Volevo sapere cosa ne pensa del Toir, secondo lei le idee che sta portando avanti, che sta dicendo, quanto tempo ci vorrà? Stadio, grande squadra, tante belle parole, che secondo me in Italia tante belle parole è sempre difficile farla. Sì, anche secondo me. Poi una ultima cosa, se possibile. Sì. È d'accordo sulla cosa che si parla della società che vuole portare la Juventus nelle due giornate di squalifica dalle curve i bambini allo stadio? Sì, mossa interessante, molto demagogica, già vista, e lo facciano se è possibile, vediamo quante schedature sono necessarie, va bene, sono d'accordo. Quanto a Toir, insomma, viene ovviamente per fare un grande lavoro, secondo me deve ancora comprendere davvero la realtà italiana, cioè in Italia, nonostante Alfano, nonostante le parole di Alfano, semplificheremo anche le procedure per la costruzione di nuovi stadi. Io onestamente in 45 anni ho visto sorgere lo stadio di Reggio Emilia e ho visto sorgere lo Juventus Stadium, per il resto ho sentito un sacco di parole, ho sentito molti buoni propositi, ho sentito di gente che arrivava con i soldi pronti per costruire lo stadio. Di stadi nuovi in 45 anni ne ho visti due. Lasciamo perdere poi le porcherie di Italia 90, eccetera, eccetera. Però di stadi moderni, realisticamente accettabili per vedere uno spettacolo sportivo, ecco, in questo momento in Serie A c'è lo Juventus Stadium, punto. Il resto non esiste. Quindi, secondo me Toir si dovrà fare i conti con questo tipo di realtà. Quanto al resto, l'abbiamo detto molte volte, non mi sembra il paperone ricco e scemo che arriva qui e versa un sacco di milioni sulla costruzione della squadra. Mi sembra un intelligente che vuole informarsi, vuole aggiornarsi, certamente non viene qui per lucrare o per bruciarsi il nome sull'Inter, viene per fare le cose seriamente. Questa è la mia sensazione, ma siamo soltanto alle sensazioni, perché tutto il resto dobbiamo ancora vederlo vivendo, naturalmente. Denis, provincia di Venezia. Buongiorno signor Genta. Buongiorno. Allora, io voglio fare due considerazioni sulla nazionale, cioè due, sì, considerazioni, due, chiamiamole due proposte, non so, chiamiamole così. Allora, uno è perché la parte, il periodo in quando la Juventus era in Serie B, la nazionale non ha mai pescato dal campionato di Serie B. E l'altra domanda è perché magari non si potrebbe non fermare i campionati di Serie A quando c'è la nazionale che gioca, quando effettivamente le squadre di Serie A hanno una rosa che secondo me potrebbe anche affrontare le partite anche quando la nazionale gioca, come fanno la Serie B, perché non fermano la Serie B allora? Sì, no, ma lei sa che comunque di recente, secondo l'ultima tendenza, nel rugby ad esempio è così. Nel rugby, per esempio francese, c'è il Sei Nazioni, ma si continuano a giocare le partite di campionato anche se mancano molti dei protagonisti. È una consuetudine quella di fermare la Serie A. A me non piacciono queste continue soste, queste continue interruzioni. Vogliamo comunque fermare per la Serie A perché ci sono altri grandi protagonisti che, quelle sì, sono partite che contano. In questi giorni si stanno giocando l'accesso ai mondiali, le partite che contano sono questa sera. Vogliamo fermare comunque il campionato? Va bene, facciamolo. Però è inutile infarcire di questi periodi di amichevoli inutili. Ci lamentiamo dei calendari così intasati. Chi non ha partite ufficiali, serie importanti da giocare, stia a casa, si alleni, si prepari, vada in vacanza. So, troviamo un'altra soluzione. Io trovo totalmente inutili partite come quella di ieri sera, o come molte altre partite cui altre nazionali che sono già qualificate, già escluse dai mondiali, sono costrette. Ci lamentiamo dei calendari intasati e allora proviamo ad evitare queste cose che, ripeto, secondo me aggiungono davvero pochissimo al processo di costruzione di una squadra che deve andare al mondiale. Con Paolo da Milano ho già parlato, ragazzi? Sì? Ok, allora, prima di lasciarvi, c'è un ascoltatore che dice, a proposito di impianti, a Cantù, si parla di basket, e lo facciamo anche dopo, stiamo aspettando il palazzetto dello sport dal 1990, ed è vero, sono le prove. Voglio farvi sentire, prima la fiera della banalità, adesso un altro personaggio che invece in questo periodo è talmente arrabbiato da non riuscire ad essere banale, Antonio Conte. Oggi il premio non lo riceve la Juventus, lo riceve Antonio Conte come allenatore. Sicuramente è un motivo di vanto, è stato premiato la grande, grande voglia, grande entusiasmo, tutto quello che ci metto come allenatore. Sono veramente molto contento poi di essere premiato in una città che vede degli allenatori importanti. Io ho avuto due maestri qui, Fascetti, Gianna Fascetti e Marcello Lippi, quindi per me è veramente un motivo di grandissima soddisfazione, perché per me sono stati dei maestri di vita. Allora, questo premio Viareggio Sport è mio e guai chi me lo tocca, non è della Juventus, è di Antonio Conte. GR, poi torniamo a 800240024, torniamo e andiamo di nuovo a Bologna. Tutti convocati. In una stanza mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città non la conosco mai. È un autunno cattivo meteorologicamente parlando, anche se continuo a pensare, vabbè, l'ho detto prima, difficile vivere in un paese in cui quattro temporali fanno crollare a quei livelli le protezioni di una regione come la Sardegna. Vi avevo anche annunciato che oggi vi avrei scortati per quattro passi sotto i portici di Bologna. L'abbiamo fatto prima con Stefano Pioli, allenatore del Bologna Calcio. Lo facciamo ora con Luca Becchi, allenatore delle Vunere di basket. Ciao coach. Buonasera a tutti. Mi dai anche una tua battuta su ciò che sta capitando in Sardegna? Perché io, cioè, sento i giornali radio, sono qui, sento queste notizie e non riesco a rassegnarmi a vivere in un paese così. Una tragedia, purtroppo quando si arriva di questi periodi, novembre è un po' il periodo dove il tempo cambia drasticamente e non è la prima volta che succede in Italia. Tutte le volte ci diciamo sì, che bisognerebbe evitarlo, che bisogna fare qualcosa perché non succeda più, purtroppo puntualmente succede. Io ricordo, io sono originario di Livorno, quindi Toscana, nelle mie zone è spesso successo, ecco, magari non di proporzioni così grandi, ma, certo, ma purtroppo sì, il novembre è il mese purtroppo delle esondazioni, delle alluvioni. Certo, poi novembre arriva tutti gli anni e poi facciamo tutti gli Alfano, no? Cioè serve una task force, bisogna reagire, bisogna fare le cose per bene. Settembre, magari anche agosto. Senti, parliamo di invece, dicevo, mese cattivo novembre e siamo d'accordo. A Bologna però sembra primavera. Stavo leggendo, ho sotto gli occhi anche Walter Fuochi su Repubblica, finalmente mezza pagina su Repubblica di Walter Fuochi, Bologna e basket, il primato della passione, voi primi in Serie A, c'è la Fortitudo che sta rinascendo dalle ceneri con il solito grandissimo entusiasmo, lì manca che sboccino i mandorli, mandorli in fiore. Sicuramente in questo momento Bologna, riguardo al basket, sta vivendo un momento florido. Le due squadre nelle categorie rispettive sono ai vertici, e a Bologna è Basket City, è una città che vive di basket. Lo è ancora? Lo è ancora. Devo dire che appunto i buoni risultati delle due squadre hanno fatto subito emergere, far venire fuori questa nuova passione. E io peraltro provengo da una città che Basket City non è più, ma che ha grandi tradizioni di basket, perché Livorno tanti anni fa aveva queste due squadre in Serie A, e quindi si percepisce proprio, ci sono grandi analogie fra le due città. La differenza è che qui il basket a Livorno purtroppo è morto, e il basket qui a Bologna è ancora molto, sì, molto vivo, molto bello. Sai, ci vuole eutanasia, la cosa, cioè la fusione tra Pallacanestro Livorno e Libertas, due realtà che insieme non potevano stare per mille ragioni, comprese quelle sociali, filosofiche. Soprattutto questa. Mi ricordo che quando a quei tempi internet non c'era niente, quindi andavamo ancora su radio e giornali, e quando io ero ragazzino andavo a scuola, ma quando lessi di questa cosa sul giornale locale non mi sembrava vero, pensavo che fosse uno scherzo, invece sì. Poi è andata come è andata. Invece poi era la sentenza di condanna del basket a Livorno. Noto però che anche a Bologna succedono cose strane. C'è Sabatini che adesso va a vedere la Fortitudo, dove gioca il figlio Gerardo. Lui in realtà vede tutte e due, perché comunque è presente anche nelle nostre partite. Io credo che sia normale, assolutamente normale, sì. Voglio dire, il figlio gioca, Gerardo gioca bene, gioca tanto, e una persona appassionata di sport giustamente segue la propria passione, ecco. Se poi gioca il figlio è ovvio che vada a vedere. Non è caso di scomodare la storia di Berlusconi che voleva comprare l'Inter, un'altra cosa. Senti, coach, io volevo farti invece i complimenti, non tanto per, o non solo per la vittoria, per questo avvio sparato di stagione, ma per una frase che ha ricordato anche oggi sulla Gazzetta dello Sport, dove tra bravi e cattivi ti becchi un bel lotto. Hai detto, a proposito di Imbro, Fontecchio e altri ragazzi che hai in squadra, altri giocatori che hai in squadra, che hanno il passaporto italiano, viva Dio, non mi piace chiamarli giovani, questa è un'etichetta dietro la quale è facile nascondersi, sono come gli altri, cioè giocatori. È ora di finirla di considerarli bambini, di fargli stendergli le passerelle solo perché hanno il passaporto italiano. Ma sì, è vero un po' tutto, è vero che non devono giocare perché sono italiani, devono giocare perché se lo meritano, è vero anche che i ragazzi nostri perlomeno hanno grande mentalità, perché hanno grande scuola intanto, perché il centro giovanile della Virtus Bologna è fiore all'occhiello di questa società e credo del basket italiano. Ci sono, i giovani italiani ci sono. Non più tardi di qualche anno fa ho avuto la fortuna di allenare due anni Pietro Radori, che era nel momento dello sboccio, diciamo, prima di andare a Siena, e quindi vanno fatti giocare se se lo meritano. Bisogna avere soltanto un po' di coraggio, ecco, perché qualche volta si pensa che l'americano, anche quando gioca male, o lo straniero, anche quando gioca male, comunque se sta in campo alla fine può inventarsi qualcosa. In realtà ci sono questi ragazzi, parlando degli stranieri, sono persone che possono avere una buona prestazione, possono incappare una giornata negativa e quindi devono essere trattati come gli altri. Certo, certo. Nel bene e nel male, e la stessa cosa vale per i nostri. Per questo noi siamo fortunati, perché abbiamo 10 giocatori e tutti davvero possono fare i protagonisti. La storia di vere storie di queste nostre 6 partite lo dice. C'è Luciano che mi scrive: dica a Luca che anche Biella è ancora una Basket City. Ti giro questo messaggio. Biella, dove per tanti anni hai allenato. Sì. Voglio Biella. È un bel ricordi, grande. Abbiamo fatto davvero qualcosa che rimarrà nella storia, perché da una piccola realtà di provincia addirittura siamo arrivati a averci il basket italiano e abbiamo fatto addirittura la Coppa. Poi purtroppo è andata come è andata, c'è stata una retrocessione, ma credo che una retrocessione sia poi anche alla fine come una grande mareggiata, no? Pulisce tutto, ma se c'è del buono poi torna su. Sì. E Biella, dimostrazione insomma, che della bontà del progetto, e che comunque sta giocando molto bene in Serie A2, il pubblico è di nuovo tornato al Palasport, riempiendolo. E quindi, come dice Barisoni, come dicono i miei colleghi dell'economia, i fondamentali sono buoni, e quindi, Biella sta riemergendo. Trovi che girando l'Italia dei canestri in questi mesi, che la grande passione, la scossa, l'energia elettrica dell'europeo abbia lasciato qualcosa, o ci siamo già dimenticati tutto? No, io credo di sì. Credo che ci sia un interesse, intanto perché appunto la nazionale ha fatto bene, questi ragazzi con lo staff sono stati bravi a far appassionare comunque tutti gli italiani. Poi chiaramente il fatto di averla vista in chiaro ha aiutato molto, e quindi questa cosa va cavalcata. Vuol dire che anche per come hanno giocato, anche lì con grande coraggio, insomma, lanciando dei giovani alla ribalta come Gentile, che sì, conosciamo tutti bene, però a certi livelli non si era mai espresso, e comunque hanno dato, guardando la televisione, la sensazione di essere un gruppo. Sì. Poi secondo me un po' di sfortuna, tanto ha fatto anche magari un po' una rotazione stretta che li ha fatti arrivare un po' con le gambe stanche, però insomma il progetto di c'è, il progetto a lungo termine, medio lungo termine c'è, i giovani ci sono, e quindi le sensazioni sono positive. Sì, insomma, ha ragione Pierigiani quando dice questo è il punto di partenza. Io sono d'accordo, sono profondamente d'accordo con questa analisi. Grazie coach, in bocca grazie al lupo, in bocca grazie al lupo e buon lavoro lì con le Vunere che stanno volando. Milano no, ieri ha perso a Venezia, sul campo su cui debuttava Zane Markowski, ex di Milano, e per Milano, ma tra l'altro ne parliamo di sicuro, è una crisi nera, ma così nera che è peggio del tempo che c'è qua fuori. Grazie a tutti, Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Merci. Ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Ma cosa mi dici mai? Mamma. Tutti convocati.